5C. Ascolta e continua la frase. Devo cercare un lavoro, ma anche Linda deve cercare un lavoro. Devo spiegare molte cose, ma... Anche Linda deve spiegare molte cose. Devo essere paziente, ma... Anche Linda deve essere paziente. Devo chiedere scusa, ma... Anche Linda deve chiedere scusa. Devo dimagrire, ma... Anche Linda deve dimagrire.